Tempo di sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti. Dunque, a una vigilia non banale accesa dalle parole di Mourinho è seguita una giornata di campionato tutt'altro che banale. Dunque, in linea con la Roma che accorcia sull'Inter, che è una Roma un po' stanca, dicevo prima nel giornale radio, non bellissima ma efficace, quella che ha battuto 1-0 il Catania, basta gol di Vucinic dopo 18 minuti di gioco, praticamente al primo tiro in porta dei giallorossi, e che quindi conducono fino alla fine questa in porto questa vittoria molto importante, come detto Inter a meno 5. Io vedo già Inter a più 5, vedo già dei messaggi come quello di Vittoria 349-238-6666. Contatto per i messaggi, telefonate 800-24-0024, numero verde. Vittoria da Milano scrive: il campionato non era chiuso prima, non lo è adesso, siamo nell'anno dei mondiali, manca tantissimo, gli arbitri non c'entrano, è tutto un cancan mediatico, la pagnolata era preparata, quella di ieri sera a San Siro, i fazzoletti bianchi sventolati, come ricordiamo, era preparata, avevano già tutti i fazzoletti e solo in quel settore. Questo non lo so, ma francamente mi sembra di scarso rilievo. Campionato aperto o chiuso, io continuo a pensare che insomma l'Inter nonostante tutto sia troppo forte e sia inattaccabile. Poi spero che la Roma arrivi vicino, spero di vedere una grande partita a fine febbraio all'Olimpico, Roma-Inter, ma vi dico la verità, io ci credo pochino, perché davvero i nerazzurri nello stagno del calcio italiano mi sembrano francamente imbattibili, come d'altra parte la stranissima gara di ieri sera ha dimostrato, nonostante il terzo pareggio consecutivo. La Juventus intanto continua nella scalata alla montagna dell'autostima, come direbbe Zaccheroni, che tra poco parlerà e naturalmente lo sentiremo. Continua la scalata della montagna dell'autostima vincendo la terza partita consecutiva, coppa compresa. Lo fa a Bologna, dove gioca un ottimo primo tempo, la signora primo tempo peraltro nel quale parte in discesa grazie al gol di Diego al quarto minuto dopo un'azione con Amauri. Il tiro ribattuto da Viviano, il tap-in di Diego che permette alla Juventus appunto di cominciare a correre in discesa a Bologna. Gioca un primo tempo, Diego forse il migliore in campo, nella ripresa sostituito da Candreva, e lì bravo fortunato Zaccheroni, perché Candreva segnerà infatti il gol della vittoria. Però la ripresa è stata di sofferenza per la signora, messa ai paletti dal Bologna già dal fischio iniziale appunto del secondo tempo. Bologna che passa al quinto con Boucher, difesa juventina non del tutto convincente, in tutta onestà. Nel momento peggiore forse della Juventus arriva appunto il gol di Candreva con un assist strepitoso di Capitan Del Piero, assist d'esterno sulla corsa di Candreva, sul taglio di Candreva, che segna il suo primo pesantissimo gol in bianconero. A proposito di peso, vittoria del Chievo a Bergamo sull'Atalanta, gol in chiusura del primo tempo di Pellissier, tiro sporco deviato da un difensore atalantino, però tre punti che insomma sono preziosissimi per il Chievo, ma soprattutto che sono un segnale molto inquietante per l'Atalanta di Bortolo Mutti. Il Cagliari non soffre nemmeno molto per battere il Parma, un Parma in rottura prolungata, due punti nelle ultime 9 giornate, segna Lazzari dopo 6 minuti, dopo 39 invece il sigillo di Matri che colpisce di testa solissimo all'interno dell'area di rigore, forse il gol più facile segnato da Matri in questa stagione. A proposito di vittorie che non fanno una piega, quella del Palermo sulla Lazio, Palermo straripante nel primo tempo, gol di Abel Hernandez dopo un minuto di gioco, quindi al 28esimo rigore di Miccoli che era stato atterrato da Muslera, portiere della Lazio, rigore ineccepibile trasformato da Miccoli. Segna poi Nocerino al 30esimo della ripresa e poi arriva il gol della bandiera, bello ma inutile, di Kolarov, sinistro in diagonale. A proposito di rottura prolungata, riprende il filo con le vittorie la Fiorentina, che aveva fatto un punto a Cagliari nelle ultime 5 partite, pochissima roba. Oggi in rimonta vince con il Bologna, con il Livorno, scusate, in casa nel derby. Livorno che apre la gara con una traversa di Lucarelli dopo 3 minuti, pareggia contro le traverse Jovetic al 13esimo, al 36esimo c'è una punizione di Rivas, grosso modo una ciabattata dal limite dell'area, barriera della Fiorentina non ineccepibile, saltano tutti, la palla passa sotto, inganna Fre. Nel secondo tempo, al 18esimo, sinistro di Vargas con la deviazione dello stesso Rivas che vale l'1-1, al 22esimo si accendono fuochi di nervosismo, espulso Rivas per proteste. Al 33esimo torna al gol dopo un sacco di tempo, non segnava dal 6 di gennaio, Alberto Gilardino, cross da sinistra, bellissima la torsione, cross del solito Vargas da sinistra, molto bello, molto preciso, Gilardino salta in aria solissimo, è bella la sua torsione, però i difensori del Livorno non so dove fossero. Gol che vale il 2-1, gol che vale la vittoria della Fiorentina, Gilardino va vicinissimo alla doppietta personale con un pallonetto in chiusura di partita che finisce fuori di un niente. Ottima partita della Fiorentina, magari poi ne parliamo, di un ragazzino, Liaic, che è entrato nella ripresa, ha giocato una splendida gara, e Fiorentina che torna a vincere medicando un po' una classifica che era per la verità pessima. Vi dico la verità, su Siena-Napoli non ho niente da dirvi, poi sentiremo le voci dei protagonisti di questa gara. Napoli in cui è tornato Lavezzi, ha giocato nel secondo tempo, ha sostituito Denis che poi si è imbestialito quando è uscito dal campo prendendo a calcio un po' tutto, non so se arrabbiato con Mazzarri che lo ha levato dal campo o con una prestazione di un Napoli onestamente oggi non bello, Napoli che non è riuscito a costruire praticamente nulla in zona gol sul campo dell'ultima in classifica. A proposito di classifica, ve la do subito, è questa: Inter 55, Roma 50, Milan 45, ma con due partite in meno, quindi anche il Milan dovesse vincere a Bari stasera, vincere mercoledì nel pre-partita di Inter-Chelsea, e vi ricordo c'è Fiorentina-Milan, beh, comincerebbe a ridare un senso più significativo alla sua classifica. Sta parlando però l'allenatore in questo momento secondo della classe, e cioè Claudio Ranieri con Sky subito. Ancora non è rinato. No, sì, è rinato. È rinata sicuramente la Roma con Ranieri. Fabio, guardavamo la classifica, prima c'è quel numero 50 della classifica, significa che in 5 mesi di gestione Ranieri la squadra ha fatto 50 punti, si è trovata a meno 14 punti dall'Inter, adesso siete a meno 5, si può dire insomma che oggi ufficialmente si è riaperto il campionato? No, onestamente no. Perché ecco, noi stiamo facendo un super lavoro e dobbiamo essere contenti per questo, però ancora non si può dire, andiamo avanti, l'ho detto, ancora stiamo nel pieno curvone e poi ci sarà il rettilineo finale. Adesso la nostra mente è rivolta alla UEFA, ci teniamo ad andare avanti perché il ranking italiano sta un attimino soffrendo e valgono i 4 punti, i 4 posti di Champions League, per cui dobbiamo far bene, devono far bene tutte le squadre italiane. La squadra ha reagito però subito a quella sconfitta ad Atene in Europa League. Come ha reagito, come ha visto oggi Doni, che era un po' nella lente di ingrandimento dei tifosi? No, ma il ragazzo ha fatto bene, Doni si è assunto, si è preso, gli abbiamo dato delle colpe che non erano tutte sue, perché c'è stato un blackout, appunto come era stato a Cagliari, abbiamo preso 2 gol su palla inattiva, sì, il portiere avrà avuto pure un concorso di colpa, però insomma non eravamo concentrati come invece siamo stati oggi, per cui un plauso alla squadra, anche perché nessuno si è accorto in campo che noi giovedì sera abbiamo giocato, venerdì mattina ancora stavamo ad Atene e oggi abbiamo giocato, veramente devo fare i complimenti alla squadra. Un'ultima immagine. Questo è Claudio Ranieri, che poi sentiremo di nuovo parlare, adesso sentiamo il traffico e poi magari sentiamo, oltre a Massimo Calegari in arrivo per un primo commento su questa giornata, sentiamo anche le vostre voci. 800 24 0024 il numero verde. Strade in diretta. Traffico intenso sulle autostrade della Liguria, in particolare ci sono code a tratti sulla A10 in direzione Genova tra Borghetto Santo Spirito e Savona e ancora tra Varazze e Arenzano. Code a tratti per traffico intenso anche sulla A5 Torino-Courmayeur tra Châtillon e Ivrea in direzione Torino. Rallentamenti poi sul raccordo Ivrea-Santià verso la A26 a partire da Albiano. Si rallenta anche sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in prossimità dello svincolo di Madesimo in direzione sud. Infine ci sono disagi dovuti ai cantieri, code sulla A7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano, mentre sulla A4 Torino-Milano ci sono code di 2 chilometri tra Balocco e Greggio in direzione del capoluogo lombardo. Strade in diretta torna tra mezz'ora. A tempo di sport. Le cronache raccontano di un Lotito furibondo con gli arbitri, pare, per questioni arbitrali dopo una partita strapersa dalla sua Lazio, che nel primo tempo francamente non ha strusciato il pallone, non so l'arbitro cosa c'entra, ma poi proveremo a capirlo da Mourinho, tutto questo straparlare di arbitri. Sono proprio curioso di sentire Lotito che cosa avrà da dire sulla partita, sulla direzione di gara di Rocchi a Palermo. Ripeto, gara persa dalla Lazio 3-1, ma nel primo tempo francamente la Lazio non ha passato la metà campo, mi pare, così la sensazione. Però poi sentiremo Lotito, giusto per avere il conforto anche della sua di impressione. Tutto questo straparlare di arbitri, ho diversi messaggi già naturalmente che ci rimandano alla partita di ieri sera. Tipo questo: adesso aspetto Mourinho al varco, vediamo se la prossima volta la coerenza lo porta a parlare di un qualche favore arbitrale, tipo retropassaggio di Samuel, non so. Troppo facile dedurre che il nervosismo dell'Inter sia figlio delle polemiche innescate da Mourinho, questa domanda dell'ascoltatore, non lo so, ma poi ne parliamo, insomma, del nervosismo dell'Inter e delle polemiche innescate da Mourinho. Io non credo stia lì il senso del discorso. È chiaro che l'Inter sta per aprire i giorni cruciali della sua stagione, ed è inutile nasconderlo. Io penso anche che l'Inter abbia in testa le partite con il Chelsea, abbia in testa il ritorno in Europa già da parecchio tempo. Io continuo a credere che il fine di tutto quel cancan che ha innescato Mourinho, divertendomi personalmente, molti ascoltatori non la pensano allo stesso modo, ma fa niente, sarà bello parlare con loro. Il cancan innescato da Mourinho in settimana, in venerdì, sia stato. Abbia avuto un obiettivo preciso che non era né quello di dar fastidio alla Juventus, staccatissimo in classifica, né quello di fare le pulce al Napoli, né quello di andare a mettere il naso in casa della Roma. Credo che l'obiettivo di tutto questo fosse quello di isolare l'Inter, di isolare la sua squadra e di togliere pressione alla sua squadra in vista della partita con il Chelsea, tant'è che oggi, insomma, tre giorni da questa gara importantissima di Inter-Chelsea, ancora non si è parlato. Non si è parlato dei fallimenti recenti dell'Inter in Europa. Insomma, questa gara al momento non esiste ed è quella cruciale per l'Inter e per il suo futuro, probabilmente anche per il futuro del suo allenatore. Tra poco di tutto questo parliamo con Massimo Gallegari, ma prima sentiamo parlare Eddie Reia, allenatore della Lazio a Palermo. Riboscare una gara e andare sotto di 2-0 diventa un po' difficile. Abbiamo lasciato un po' di spazio nei primi 5-10 minuti e il Palermo si sapeva, l'avevamo preparata anche, si sapeva che loro partivano forte e noi non abbiamo contrapposto, diciamo, soprattutto nelle posizioni, siamo andati sotto di 2 gol. Uno però vorrei rivederlo, perché secondo me Micoli non è stato toccato. In più loro sono andati sul 2-0 e da lì la partita era un po' compromessa, era difficile poi rimontare. Lei ha detto ci vorrà un mese, dopo rivedremo naturalmente anche l'episodio del rigore di Miccoli, un mese per dare un'identità di nuovo a questa squadra. Questo passo falso qui a Palermo dopo la vittoria di Parma, questo è intanto l'episodio di Miccoli. Non l'ha neanche toccato e poi oltretutto si tuffa, non l'ha neanche preso, e si butta, sarebbe da ammonire Miccoli. E poi Muslera era diffidato, un rigore che non c'era, in più c'è l'ammonizione, Domenico non ce l'ho. Oltre al danno anche la beffa, mi dispiace questo. Adesso rivedo. Allora c'è Miccoli che sulla sinistra dell'area di rigore, vede dentro l'area naturalmente, salta Muslera. Non lo so, a me sembra, probabilmente vediamo due cose diverse, la vediamo da televisori diversi, a me sembra che questo contatto ci sia. Tra l'altro Miccoli aveva saltato netto Muslera, quindi non fosse caduto per terra, sarebbe andato in porta con il pallone. Però, non lo so, può essere che abbia ragione di Reia, non sindaco su questo. Massimo Gallegari, buonasera. Ciao, buonasera. Parliamo di ieri sera, della partita di San Siro. Hai ragione, non è stata una partita di pallone. No, io ti dico una cosa, un mio pensiero, e poi apriamo i microfoni agli ascoltatori. Io credo che l'arbitraggio molto severo, molto rigido, orgoglioso, come scrive Casarin oggi sul Corriere della Sera, di Tagliavento, sia alla fine un sigillo di garanzia per questo campionato, perché si parla di sudditanza psicologica, di Inter che ha favore arbitrali, eccetera eccetera, si ritrova in maniera sacrosanta, peraltro, almeno nel caso di Samuel, su quello di Cordoba si può anche continuare a discutere, però si ritrova in 9 contro 11 dopo 38 minuti di partita. Beh, mi sembra un buon segnale, tutto sommato. Sì, arriva un po' tardi, cioè non solo relativamente all'Inter, relativamente alle grandi, perché solo la settimana scorsa Milan-Udinese non aveva presentato un arbitro così coraggioso, no? Però è importante che, meglio tardi che mai, anche nelle nostre squadre, soprattutto nell'imminenza di impegni europei, gli europei si abituino a un metro che a volte è considerato anche troppo rigido e rigoroso, però la UEFA in maniera molto chiara sta facendo questa campagna da un po' di tempo, e il rispetto dell'avversario passa non solo dall'atteggiamento relativo ai falli e alle situazioni disciplinari, ma anche da tante altre. Se noi vediamo l'espulsione di Carrick di mercoledì, di martedì di Milan Manchester, il secondo giallo arriva perché lui sposta il pallone di un paio di metri, una situazione che in Italia è abbastanza comune. Lì l'arbitro, pur avendo già ammonito il giocatore al 92esimo, lo espelle, Carrick non si lamenta perché sa che va così. Poi non è tutto così come dire, così bello neanche degli altri paesi, perché io martedì ero a Lione, c'era l'arbitro che aveva arbitrato malissimo Liverpool-Everton un paio di settimane fa, che Atkinson aveva fatto menare dall'inizio alla fine in quella partita, in Europa ha arbitrato molto bene, quindi purtroppo è molto umano, no? Adeguarsi al contesto in cui si è, c'è chi lo sa fare meglio o peggio, meglio per l'Inter che sa già a cosa va incontro in Europa e non se ne rende conto come gli anni scorsi, troppo tardi, con Materazzi espulso ad Anfield o situazioni simili. Inter molto nervosa, si diceva, io non credo che ci sia un nesso di causa-effetto immediato e unico tra i fuochi di polemica accesi da Mourinho e il nervosismo dell'Inter. Credo il nervosismo dell'Inter sia più da leggere con l'avvicinarsi di una partita che vale la vita per l'Inter, anche per molti giocatori, per lo stesso allenatore, per la società, eccetera. Tu vedi invece, Massimo, un campionato riaperto, domanda banale, ma insomma, la Roma meno 5? Io francamente no, perché è vero che l'Inter reduce da tre pareggi diversi tra di loro, ma quello di ieri sera secondo me è stato un segnale di forza ulteriore. Sì, anche dal punto di vista tattico, non solo della mentalità, perché tante volte l'Inter, la partita che aveva recuperato con il Siena quando era sotto 3-2 fino a pochi minuti alla fine, l'aveva vinta con Samuel centravanti, sembravano situazioni più figlie di momenti casuali, no? Di cambi che avevano scombinato gli equilibri più che di qualcosa di voluto e di organizzato. Ieri il modo in cui l'Inter ha gestito la partita con due uomini in meno, dal punto di vista tattico, con molte scelte anche proprio chiare e razionali del suo allenatore, è stato positivo. Quello che è evidente è che anche dei campionati che Mourinho aveva vinto in Inghilterra col Chelsea, mai si era trovato a questo punto del torneo con un vantaggio così limitato, sempre minimo più 9, addirittura più 15 un anno al Chelsea, tra Inter e Chelsea, e lo stesso vale per l'Inter negli ultimi anni. Quindi questo è un dato molto chiaro e che dà delle speranze alla Roma, che ha due scontri diretti fondamentali in casa con Milan e con l'Inter. L'Inter arriva alla partita con il Chelsea e ancora una volta i giocatori che cedono, e in maniera proprio clamorosa dal punto di vista psicologico e sotto pressione, sono alcuni uomini storici come Cordoba, come Stankovic, più di tutti, anche se non è stato espulso, ma avrebbe forse meritato l'espulsione all'inizio della partita per il fallo su Pozzi, e lo stesso Samuel. Questo è preoccupante. Da un lato l'Inter sa che può appoggiarsi su uomini come Tô, anche se non è ancora al top, o come Lucio o come Sneijder, che sono invece un po' meno labili dal punto di vista psicologico nei momenti di massima pressione. Hanno anche un po' meno passato turbolento nell'Inter, anche un po' meno fallimenti sulle spalle naturalmente rispetto a quegli altri che hai citato. Zaccheroni con Sky. Dopo mezz'ora, la fatica di giovedì, e non è sicuramente un alibi, tanto è vero che i miei innesti sono stati effettuati tutti nella zona nevralgica del campo. Ecco, a questo proposito lei ha inserito Candreva, che ha segnato peraltro con un movimento di quelli che lei vuole vedere da parte di chi occupa quella posizione del campo. Le chiedo quanto c'è di suo merito e quanto c'è invece magari di fortuna, perché nell'occasione precedente il Bologna aveva preso un palo proprio qualche istante prima del gol di Candreva. Cioè, sì, ma questi sono i momenti individuali all'interno di una partita collettiva, non so quanta fortuna ci sia. Quando ci abbiamo messo anche del nostro nel salvataggio di quel gol, insomma. Adesso non so se l'ha preso Buffon o chi l'ha presa, Ma poi nel calcio lo sapete meglio di me, succede spesso che gol sbagliato o non fatto nel capovolgimento di fronte si può verificare una situazione contraria alla tua squadra. No, sì. Volevo dire, intanto che ce l'ho in mente, anche fare i complimenti all'arbitro, perché qualcuno a questi arbitri bisogna che i complimenti glieli faccia, perché con la situazione che si è creata nei nostri confronti su quei due episodi precedenti, l'aria che si respira non è delle migliori per loro. E quindi devo fare i complimenti all'arbitro, che non si è fatto minimamente condizionare dalla settimana appena passata. Fabio. Queste le parole di Zaccheroni mi sembrano molto significative. Io, prima di salutare Massimo Calegari, vorrei parlare con Mario da Verona, poi ho un altro Mario della provincia di Milano già in linea, 800 24 00 24. Partiamo da Verona, dal Mario di Verona. Buonasera. Sì, buonasera dottor Genta. Salve, dica. Senta, secondo me ieri Mourinho ha sbagliato città, perché lo show era a Sanremo, non certo Sanremo. Detto questo, questa è carina, questa no, è carina. Io volevo evidenziare un aspetto che insomma in tanti lo hanno fatto, a dire il vero. Cioè, questo signore ha la grande abilità di spostare il vero problema su questioni di poco conto. Cioè, la verità è che lui, dopo quasi due anni, in realtà io mi sento di dire che non ha dato uno schema ben fisso e ben preciso alla squadra. Cioè, io mi ricordo che il Sacchi del Milan, al di là di chi giocasse, insomma, aveva una sua fisionomia ben definita. L'Inter ancora oggi, secondo me, in Italia continua a essere la più forte, continua a vincere, perché oggettivamente ha una rosa che non ha assolutamente rivali. Quindi volevo evidenziare questo aspetto. Poi, se mi permette, volevo anche fare i miei complimenti vivissimi a Leonardo. Sì. Perché insomma mi associo in pieno. Ha risposto a muso duro al presidente, perché al di là delle battute di facciata, insomma, il Milan oggi, e ahimè lo dico col cuore che mi piange perché sono milanista, è una squadra credo di seconda fascia, non posso ambire a diventare di prima fascia. Bravissimo, perfettamente d'accordo. Perfettamente d'accordo. No, grazie. No. Grazie a lei, Mario. Non sono d'accordissimo sulla prima parte del suo intervento, sulla sua seconda invece sì. Ieri mi ha fatto molto piacere questa levata di scudi di Leonardo all'ennesima inutile punzecchiatura del suo presidente, perché non ci sta proprio, perché insomma questo Milan sta facendo non bene, benissimo. Leonardo. Attenzione, sta facendo non bene, benissimo il Milan e Leonardo in rapporto al materiale umano che si trova, al personale che si trova a dover gestire. È riuscito a resuscitare, ma che fosse il dottor Frankenstein, una creatura che non aveva più tanta vita. È chiaro che questa creatura non è di livello europeo, non è nemmeno di livello italiano, non è nemmeno da scudetto. Sta facendo il massimo di quello che può fare con l'organico a disposizione, e quindi all'ennesima puntura Leonardo, che pure è un aziendalista convinto, ha reagito come si deve, ha reagito come andava fatto, secondo me. Massimo. Beh sì, sulla prima parte sono d'accordo con te, nel senso che comunque quest'anno, anche se non con continuità totale, l'Inter ha dato delle dimostrazioni di identità tattica molto più precisa rispetto all'anno scorso, e dipende molto meno da un uomo solo, tanto che tu è rimasto fuori a lungo in questa fase iniziale del 2010. La prova europea sarà come sempre quella definitiva, e non c'è molto tempo ormai perché arrivi. Anche sul secondo aspetto sono d'accordo, come sempre poi si tratta, come spesso è successo, ed era stata anche poi una delle motivazioni che ha portato alla rottura finale con Ancelotti, le frasi del presidente Berlusconi sono espresse in una situazione privata o semi privata, e poi dopo diventano, come il suo ruolo evidentemente richiede o determina, situazioni pubbliche, dichiarazioni pubbliche. Leonardo ha risposto in maniera molto decisa. Il Milan a questo punto, come squadra, deve trovare anche da questo uno stimolo positivo e deve riuscire a compattarsi e a ricordarsi che comunque questa sera ha una partita molto importante, che c'è il recupero con la Fiorentina, perché l'obiettivo del Manchester è stato messo in primo piano e anche alcune scelte di campionato sono state fatte in funzione di quella partita. Se poi il Milan uscirà dalla Champions, come al momento è molto possibile se non probabile, deve rimanere concentrato sul campionato, perché dietro c'è un gruppone molto forte, quindi certo, è un campionato che è tutto ancora da gestire. Certo, certo. Grazie Massimo, buon lavoro. Grazie a voi, buona domenica. Ci fermiamo un attimo, poi Mario dalla provincia di Milano, prossimo ascoltatore in linea subito dopo questa breve pausa. 800 24 0024, numero verde per le telefonate, messaggi 349 238 6666, vi aspetto qui. Marco, siamo intercettati, ci hanno messo le cimici, ci ascoltano ovunque, mi hanno detto persino alla radio, siamo alla radio, alla, hai capito? Alla radio, on air, ma che splendida opportunità mediatica. No, scusate, non ho capito, siamo intercettati o una grande opportunità? Cosa dottor, sta... dottor, tutti i giorni su Radio 24 alle 16.50 si ascolta che par di sentirla parlare proprio lei. Uè, ma come alle 16.50 a parlare in radio? Uè, disgiochi, alle 16.50 io lavoro. E ho capito, ma 5 minuti ci si può fermare, stiamo sempre a lavorare. No, no, no, no, mi lavoro e mi ascolto invece la replica la sera alle 22.50. Ma siate smart, ma scaricatela in podcast. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv, 3Z2O1T. C'è chi lancia uno stile. Spostatevi tutti! Quest'anno lanciamo l'argento! E chi più semplicemente lo vive. Classe B Blue Efficiency Executive, da 21.990 euro a tasso zero, con ecoincentivi alla rottamazione Mercedes-Benz, TAN 0%, TAG 0,78. Massimo finanziabile 15.000 euro. Salvo approvazione Mercedes-Benz Financial Services Italia. Negli showroom Mercedes-Benz. Info su mercedesbenz.it. Mi rado, mi doccio, mi asciugo, mi vesto, mi mangio qualcosa, mi precipito fuori. Via Diaz, via Senato, piazza Fiume, via Nitti, via Reni, via Girombelli, piazza Roncisvalle, via Po, rotonda, incrocio, pedone, frenata. Di nuovo rotonda, seconda a destra, sottopasso, semaforo, piazzetta, parcheggio, non trovo, non trovo, non trovo, parcheggio, ufficio, caffè, riunione, pranzo e banca! Siete arrivati in banca così in fretta e in tanti che l'offerta di obbligazioni Enel si è chiusa in anticipo. Grazie per averci dato fiducia e per aver contribuito al successo dell'operazione. Enel, l'energia che ti ascolta. Quanto sono vivaci! Grazie alla conservazione in frigo, solo Iovis ha 300 miliardi di fermenti lattici vivi per un'azione utile contro diarrea, coliti e terapie antibiotiche. Iovis, in frigo c'è fermento. Vivo! È un medicinale, leggere attentamente il foglio illustrativo. Non mi sposi più. Ma, Pucci, ho tradito la tua fiducia. Mai! Pucci, tu sei il solo! Il solo a non saperlo. Per un'azienda avere corrette informazioni sui propri partner è essenziale. Credit Reform Italia, con il servizio rapporto classificato, ti assicura l'informazione commerciale su tutte le aziende italiane con un clic. Credit Reform è leader in Europa per le informazioni commerciali online. Meglio saperlo prima. www.creditreform.it. Numero verde 800 425 325. Il Sole 24 Ore presenta Domenica, un anno di idee. Un CD-ROM che raccoglie tutti gli articoli pubblicati nel 2009 sull'inserto culturale. Un anno di arte e musica, di letteratura e filosofia. In edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. La settimana si aprirà all'insegna del maltempo per il passaggio di una nuova perturbazione atlantica proveniente dalla Spagna, perturbazione che già questa notte riporterà le precipitazioni al nord-ovest, sull'alta Toscana e in Sardegna. Precipitazioni che assumeranno carattere nevoso sui rilievi del nord-ovest fino a quote collinari. E domani una giornata con un cielo ovunque molto nuvoloso coperto e piogge che interesseranno praticamente tutto il nostro paese ad eccezione della Sicilia. I fenomeni saranno anche forti e a carattere temporalesco su Lazio e Campania, soprattutto al mattino. La neve cadrà sui rilievi del nord Italia oltre i 400-800 metri, lungo l'Appennino oltre i 900-1300 metri. Le temperature sono previste in rialzo le minime, le massime invece caleranno lievemente al centro nord. I venti, per concludere, sono destinati a rinforzare, domani soffieranno da moderati a forti meridionali un po' su tutti i nostri mari. Con questo per il momento è tutto, maggiori dettagli sul sito meteo.it. Buonasera a tutti. Sono Giovanna Montanari, amministratore delegato di Falqui Prodotti Farmaceutici. La nostra azienda produce farmaci, integratori, multivitaminici e le mitiche Zigulì. Falqui è un'azienda tutta italiana che dal 1938 si occupa seriamente e professionalmente della salute e del benessere degli italiani e da sempre Falqui è sinonimo di qualità e sicurezza per i consumatori. In farmacia chiedete i prodotti Falqui, date fiducia ai prodotti italiani. Falqui, basta la parola. Come va lassù? Tutto bene? Quasi finito! Ma quanto carburante ci sta dentro sta tanica? Ci devo fare oltre 20.000 chilometri! E come fa con l'autostrada? È più grande del casello! Affrettati! Fino al 31 marzo, Forester Diesel con carta prepagata PostePay Subaru per rifornirsi e viaggiare gratis per oltre 20.000 km. Oppure B-Fuel al prezzo del benzina con un risparmio di 2.300 euro. Anche sabato negli showroom Subaru che aderiscono. Continua la fantastica stagione invernale a Folgaria e Lavarone. La località turistica del Trentino più vicina a voi e sede dei Mondiali Studenteschi 2010 propone oggi un'offerta all'altezza di ogni iniziativa. Venite a trovarci. Vi aspettiamo anche per illustrarvi le prossime importanti novità. Ski Tour dei Forti Folgaria e Lavarone. Dove sciare e vivere un momento di libertà. folgariaski.com. Svegliami, sveglio, mi lavo, mi vesto, mi trucco e parrucco, lavatrice, caffè e colazione per tutti, tutti fuori, sveglio il piccolo, protesta, lo vesto, protesta, lo porto all'asilo, protesta, lo bacio, protesta, poi l'autobus, tram, caffè, mail 37, le leggo e rispondo, 3 contratti in inglese, francese, tedesco, macelleria, lavanderia, calzolaio, 2 riunioni e banca! Siete arrivati in banca così in fretta e in tanti che l'offerta di obbligazioni Enel si è chiusa in anticipo. Grazie per averci dato fiducia e per aver contribuito al successo dell'operazione. Enel, l'energia che ti ascolta. A tempo di sport. Nel periodo non collegato ha parlato con Sky Mazzarri, insomma non vi siete persi nulla, parole di circostanza come sempre, insomma, dobbiamo pensare partita dopo partita, creiamo un'infinità di occasioni da gol, poi prendiamo i pali alle traverse, è un momento che non riusciamo a segnare, eccetera, cose già sentite più di una volta. Mario, provincia di Milano, buonasera. Buonasera Carlo. Io volevo fare una considerazione su questo personaggio che si dice abbia portato un vento nuovo nel calcio italiano. Io non voglio entrare sulle sue capacità tecniche di gestione di squadra, perché io penso che, da milanista lo dico, dai risultati mi sembra francamente inappuntabile. C'è solo però una cosa che mi fa diventare pazzo, come ha detto lei ieri, è che lui è riuscito, a mio avviso, con la nostra complicità, perché ci metto dentro tutti, media, TV, radio, pur i bar dello sport, è riuscito a cambiare, come per magia, alcuni vocaboli della lingua italiana. Cioè lui è riuscito a far capire alla gente che è arrogante è uguale a uomo con personalità. Maleducato è uno che dice quello che pensa, come uno che dice quello che pensa non può essere anche educato. Presuntuoso, furbo. Educato, uomo senza personalità. Ecco, io in questo momento io la vedo un po' come il suo collega Garanzini. Cioè, in un periodo, in un momento dove l'educazione civica in Italia non è che sia molto, molto in alto, non è a livelli altissimi, importare dall'estero il peggio mi sembra una scelta discutibile. Solamente questo volevo dire. La ringrazio e l'ascolto per radio. A lei Mario. Non lo so, sa, qui sono questioni di gusti, di tifo, di tante cose. A me personalmente Mourinho non dà fastidio. Non mi dà fastidio, se non quando esagera, certe volte diventa offensivo, eccetera. Però non lo so, io francamente mi sono un po' stufato anche di sentire dichiarazioni politically correct come quelle che vi ho sintetizzato di Mazzarri, ma questo non solo nel calcio, nello sport in generale. Ieri rifacevo quel parallelo con le diatribe dialettiche a volte molto violente che hanno fatto grande il basket italiano tra Peterson e Bianchini. Peterson, pur allenatore che viene dall'estero, non mi sembra sia maleducato, tutt'altro, non è mai stato, non mi sembra, però comunque era uno che quando c'erano cose da dire anche forzate, anche cattive, lo faceva. Ha trovato in Bianchini uno che gli rispondeva a tono e per le rime. Insomma, questo in tutto questo perbenismo a volte un po' falso che permea lo sport italiano, uno che arriva e fa un po' di casino, a me non dispiace se rimane nelle righe. Quando non rimane nelle righe è bene farlo notare, perché appunto a volte diventa nei suoi riferimenti a persone e cose un po' offensivo, però non è sempre offensivo, diciamoci la verità, non è sempre offensivo, perché quando parla di, mi sembra l'altro giorno, dell'area lunga 25 metri, non ha offeso nessuno, mi pare. Quando ha detto soltanto una cosa, ha espresso un pensiero, quando parla di Roma che ha certi comportamenti sul mercato, no, anche lì non mi sembra abbia offeso nessuno. Quando parla di Mazzarri del Napoli, mi sembra che e dice no, non, De Laurentiis non mi prende perché non hai soldi per pagarmi, anche lì non mi sembra che abbia offeso nessuno. Sono concetti molto forti, sono espressioni molto forti, però siamo molto permalosi, i tifosi sono molto permalosi, ma anche questo fa parte del gioco, Visto che stiamo parlando di arbitri, Massimo Chiesa, buonasera, grazie, ben trovato. Buonasera a te Carlo e a tutti i radioascoltatori. Cosa ne pensi di Mourinho e dei suoi fuochi polemici? È un personaggio difficile da gerire, io lo capisco. Poi se sei tifoso ti fa diventare una bestia, io capisco anche questo, capisco che sia come l'aglio, o ti piace o non ti piace. Io provo a guardarlo con un po' di neutralità, tutto sommato, a me non dispiace. Quando non esagera non mi dispiace. Io ci provo a guardarlo con un po' di neutralità e devo dire ogni tanto faccio fatica perché secondo me riesce con certi atteggiamenti oltre le righe a vanificare anche quanto di buono sta portando, non dico solo in termini di mentalità, perché se facciamo un discorso in generale, dici bene tu Carlo, o lo ami o non ti piace. Io sono nel secondo gruppo, a me non piace molto, sì, non sì. Parlo come tecnico, parlo umanamente, perché certo. L'arroganza con la quale si avoca il diritto di giudicare tutti e di non accettare nessun tipo di critica mi disturba, se devo essere sincero. Non trovi che tutto questo comunque abbia sempre un secondo fine, che in questo caso secondo me è quello di gestire la partita con il Chelsea? Allentare la tensione, tirar via la pressione dalla squadra, in questo lui ci riesce bene, è maestro. Il problema di fondo è che ti domandi, dopo aver visto la partita di ieri dell'Inter e i livelli di tensione semiparossistica ai quali lui ha trascinato i giocatori, com'è che poi riescono ad affrontarla con una squadra molto più forte anche della Sampdoria e molto più solida da un punto di vista di tenuta nervosa? Cioè mi viene da pensare se tutto questo suo atteggiamento, tutti questi suoi atteggiamenti poi veramente portano qualcosa di buono o meno. Lui ha la squadra migliore in assoluto in Italia, dovrebbe stracciare il campionato alla seconda a 5 punti e un'altra teoricamente a 4, dico solo teoricamente per far piacere al popolo rossonero. Mi viene da pensare veramente, è così che si gestisce una squadra, è così che si gestisce un gruppo, cioè non riesco, obiettivamente io in questo sono critico, non credo che stia facendo bene, anche perché è vero che protegge la squadra da un certo punto di vista, è vero però che trasferisce alla squadra tutte le sue tensioni, è vero altrettanto che sta diventando noioso, perché le cose sono belle quando dice bene Allegri, dice, ma poi tutto sommato a me che mi frega, cioè lui ne ha per tutto e per tutti, però non accetta, cioè mi piacerebbe molto di più se accettasse anche le critiche. Sì, certo. Questo certamente. A me piacerebbe vederlo con un contraltare al suo livello dialettico, ma comunque. Massimo, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico, poi vorrei fare due chiacchiere con te sugli arbitri. Non so se vorrai partire, pensaci, dai complimenti di Zaccheroni di oggi o dalla rabbia di Reia della Lazio per l'arbitraggio di Cagliari, Lazio che ha inaugurato la sua personale stagione della politica del lamento, l'ha detto Lotito, non mi sono mai lamentato fin qui, adesso mi lamento, quindi dichiarando apertamente l'inizio della stagione della politica del lamento laziale, come fanno gli altri peraltro. Traffico. Strade in diretta. Per traffico intenso in Liguria ci sono code a tratti in direzione Genova, sulla A10 tra Borghetto Santo Spirito e Savona e ancora tra Celle Ligure e Arenzano e code sulla A12 tra Rapallo e Genova Nervi. Code per traffico intenso anche sulla A5 Torino Courmayeur tra Châtillon e Ivrea in direzione Torino, rallentamenti poi sul raccordo Ivrea-Santià verso la A26 a partire da Albiano. Si rallenta sulla A4 Torino-Milano in direzione Milano, sia tra Balocco e Greggio che tra Novara Est e Marcallo Mesero. Per lavori code di 2 km sulla A15 della Cisa tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. È stata invece riaperta la A3 Salerno-Reggio Calabria tra Lago Negro Nord e Buon Abitacolo verso Salerno, chiusa in precedenza per un altro cantiere. Strade in diretta torna tra mezz'ora. A tempo di sport. Allora, i complimenti di Zaccheroni all'arbitro di Bologna Juventus, che era Banti. Poi Lotito che dice: arbitri, bisogna ritrovare la credibilità. Mezza Roma che a Siena dice: arbitraggio a senso unico. Fino a una settimana fa si lamentava a Napoli dicendo, addirittura in alcuni casi mi è capitato di sentire ascoltatori, da quando è tornato Bettega fischiano tutto contro il Napoli. Ho sentito anche questa. Poi dunque si è detto della Lazio, l'Inter ieri sera, Massimo Chiesa. Ma guarda, l'Inter ieri sera, secondo me, cominciamo dalla partita più importante di ieri, o perlomeno dalla capolista. Devo dire che se tutti si comportassero come Tagliavento, probabilmente l'esempio sarebbe quello corretto. Sì. Non devi avere timore reverenziale per quello che concerne la prima classifica, che si chiami Inter, Juve, Milan, piuttosto che qualsiasi altra squadra. Se una squadra entra, non trova il bandolo della matassa e inizia a picchiare, sì, devi reprimere. Perfetto, perfetto. No. Perfettamente d'accordo. Massimo, non trovi, io lo dicevo prima, che questo sia un buon segnale invece per il campionato? Molto buono per quello che riguarda l'analisi della personalità degli arbitri, che fin troppo hanno mancato quest'anno. Sono assolutamente d'accordo con te, è un ottimo segnale, e questo è un segnale che deve far riflettere anche chi pensa di avere una licenza di intoccabilità. Non esistono. L'Inter ha avuto qualche torto e ha avuto molti favori per errori arbitrali, ma favori non intendo gol, piuttosto che calci di rigore, piuttosto che ti faccio un nome soltanto: Muntari si è salvato 3 espulsioni quest'anno come minimo. Ieri sera mi era sembrata di nuovo lo stesso andazzo, perché pronti via ho visto Bruce Lee piuttosto che Stankovic. Da quello era un intervento quasi da rosso diretto, poi inizi la partita, cerchi di gestirla un po', gli dai il giallo, niente, mi è sembrata veramente una roba da pensare. Poi però la ripresa è quando poi la mentalità dei calciatori ti fa capire che se trovano l'arbitro con gli attributi e con la personalità si adeguano, cioè si possono protestare un po', però poi si adeguano, e chiaramente la squadra di fuori in questo caso si sente anche più tutelata. Sì. Mi sembra che le azzeccate tutte, era difficile ieri in quella tensione azzeccarle tutte. Per quello che invece riguarda oggi, Banti non mi è sembrato abbia fatto disastri particolari, onestamente. No, no. Infatti Zaccheroni con un po' di malizia gli ha fatto pubblici complimenti. Sì, con un po' di malizia. Tra l'altro ha pescato bene anche il fallo di Raggi alla fine, che sì, mi è sembrato corretto il rosso diretto. A me piacciono, cioè non che mi piacciono questi falli, mi piacciono questi provvedimenti disciplinari, perché si travisa troppo tra il giallo e il rosso. E in Europa sono rossi e in Italia sono troppe volte gialli. Mm. E a me questa è una cosa che non piace molto. Un fallo così da tergo, quando si va diretti sull'uomo, si va fuori, ma si deve andare fuori tutti in termini di uniformità. Chiaro. Per quello che riguarda Siena, insomma, Giannoccaro è un arbitro modesto, sta facendo qualcosa di buono, Collina sta provando a dargli qualcosa di un po' più importante. Non l'ho vista una partita a senso unico, non so cosa abbia visto mezza Roma, però Siena ha fatto una partita in linea con la povera cifra tecnica che questa squadra ha, mi spiace dirlo, però insomma sì, non, sì, tra l'altro il Napoli in fase calante, perché anche il Napoli non è che si esprima particolarmente bene. Poi fa una fatica dannata a trovare il gol, Massimo. Senti, sì, ma per chiudere queste polemiche laziali, allora io come sai e come al solito le partite le vedo spezzettate, un po' qua e un po' là. Io nel primo tempo ho visto il Palermo sempre nella metà campo della Lazio, poi sì, adesso si contesta questo rigore, questo contatto tra Muslera e Miccoli. Il rigore ci sta, appunto. Cioè, le immagini che ho visto io onestamente sono da dietro, però devo dire francamente, secondo me Lotito dovrebbe essere contento, perché al momento in cui Miccoli tenta di saltare il portiere, l'ultimo uomo poteva essere anche rosso, esatto, ma sì, fuori anche il portiere, per cui ha sbagliato, ma a favore della Lazio. Massimo, grazie, sempre un piacere. Grazie a te, ciao, buona serata. Ciao Massimo Chiesa. Andrea da Genova, Enzo da Cagliari, torna a parlare con gli ascoltatori, 800 24 00 24. Andrea, buonasera. Buonasera, chiamo da da Genova, sono tifoso sandoriano. Volevo fare una considerazione sulla partita di ieri vista da un tifoso sandoriano. Sì. Ma io ho avuto un'impressione, in un primo momento sono rimasto un po' deluso dall'atteggiamento della Sandoria. Anch'io. Contro 9. Anch'io. Però il giorno dopo, a mente fredda, ritengo che forse tutto sommato non sia stata alla fine una condotta saggia, in quanto per riuscire probabilmente a segnare si doveva stringere di più l'Inter in aria, più contatti fisici, e forse saremmo rimasti 10 o in 9 prima dell'espulsione di Pazzini. Basti vedere che il primo fallo di Pazzini nel secondo tempo gli ha dato il cartellino giallo. Sì, ma perché allora perché l'atteggiamento della Sampdoria è diventato migliore con l'espulsione di Pazzini? Quindi 10 contro 9, questo è abbastanza misterioso. No, la Sampdoria mi ha deluso, Andrea, a dire la verità. Poi parliamo di timore reverenziale degli arbitri nei confronti dell'Inter, spesso ne parliamo e qualche volta ha ragione, anche gli avversari spesso hanno timore reverenziale nei confronti di questa Inter, però una Sampdoria così in condizione, con una classifica che tutto sommato le consentiva anche di rischiare un po' di più, si trova in quella situazione stranissima, inimmaginabile, e tutto sommato si consegna all'Inter in 9 contro 11, è stata in tutta onestà un po' deludente. Però che se avessero pigiato sull'acceleratore con più contatti, più forza fisica, più intensità, il clima che c'era durante la partita avrebbe potuto portare a provvedimenti disciplinari, ammonizioni, espulsioni, come dire, non era un clima, avevano il freno a mano tirato, ma probabilmente perché si temeva di avere dei giocatori sanzionati. Di avere dei giocatori sanzionati, così non ha avuto i giocatori sanzionati, ma non ha neanche vinto una partita che, per come si era messa e nella logica delle cose, poteva pure tentare di vincere. Quindi non so, è un accontentarsi. Ripeto, da osservatore sono un po' deluso da questo atteggiamento perché è stato troppo rinunciatario, ma la mia impressione. Prima di Enzo da Cagliari, Prandelli con Sky, tornato a vincere Prandelli. Non è una coincidenza, anche perché la nostra manovra si basa proprio soprattutto per far concludere Gila. È una vittoria importante, sofferta, una vittoria voluta, una vittoria che in questo momento avevamo proprio la necessità di raggiungere, visto l'emergenza che sta continuando. Quali sono state le difficoltà però, perché ce ne sono state soprattutto nel primo tempo? Ma noi siamo partiti bene, abbiamo avuto subito una palla gol se non sbaglio, e poi abbiamo commesso un fallo a metà campo, abbiamo commesso un errore veramente ingenuo, ci siamo girati tutti, loro hanno battuto velocemente e Lucarelli ha preso la traversa e lì ci siamo spaventati e è stato veramente molto bravo il pubblico ha capito il momento, non ho sentito fischi, ho sentito soltanto incoraggiamento. Siamo usciti nel secondo tempo qualche minuto prima proprio per tastare l'umore della gente, che era molto molto positivo, e siamo andati in campo con molta più non determinazione ma serenità, e poi secondo me abbiamo meritato la vittoria. Questo è Prandelli. Enzo da Cagliari, buonasera. Buonasera, premetto che io non sono un tifoso dell'Inter, ma sono un tifoso nemmeno di Mourinho, perché secondo me è, se non è il migliore allenatore attualmente, è sicuramente tra i migliori, perché anche ieri ha dimostrato di avere una personalità notevole e di avere in mano veramente questa squadra, nel senso che conosce pienamente i suoi giocatori e rispondono in modo eccezionale anche in momenti di grossa difficoltà. In più, secondo me, ha un'altra caratteristica, che vivendo in Italia e sapendo che in Italia ci sono molti giornali sportivi, ci sono molti giornalisti, è abile anche nel mettere in campo ogni qualvolta molti atteggiamenti che sembrano polemici, però secondo me sono fatti ad arte, sono studiati, e quindi ha una doppia capacità di gestire il suo rapporto sia con la stampa che con la squadra. Sì, ma lo faceva anche in Inghilterra, Non si è inventato questo modo in Italia perché sono famosi. Ma qui magari sembra un po' più accentuato. Ma qui ha trovato terreno più fertile, che come spruzzare la benzina sul fuoco. Siamo estremamente permalosi, a differenza molto spesso degli inglesi. Siamo estremamente permalosi, abbiamo il nervo scoperto sul tifo insomma, non, il calcio è religione da noi molto più che in Inghilterra, quindi in Inghilterra diventavano notizie, facevano discutere sui famosi mind games con Ferguson, ad esempio, sui famosi botte e risposte. Ferguson era comunque un contraltare all'altezza, cosa che forse in Italia Mourinho non ha ancora trovato. In questi giochi dialettici, insomma, là trovava delle risposte adeguate, qui trova della gente un po' spaesata e dei tifosi che si imbestialiscono come le iene. Quindi, insomma, questione di gusti. Sarei un po' stufo, lo faccio da due giorni di parlare di Mourinho, però se volete sono qui, A tempo di sport. Ripartirei da una battuta di Del Piero con Sky in diretta. Le sue idee e noi fino adesso siamo stati anche bravi, a mio avviso, a seguirlo con attenzione, con caparbietà anche, devo dire. E i risultati soprattutto ci danno ragione, ci danno entusiasmo e creano tutto questo. Ma c'era meno convinzione in quello che facevate prima? Ci credevate un po' di meno in quello che facevate prima? Ma sai, noi abbiamo affrontato, anzi ci siamo imbucati e abbiamo poi affrontato un periodo inusuale per molti di noi. Il fatto di non riuscire a vincere con così tante partite e soprattutto di perdere così tante partite ci ha lasciato sicuramente un po' uno stato di imbarazzo, di confusione, quindi avevamo perso un attimino di convinzione, quello sì. I risultati ci aiutano a ritrovarla e speriamo che questo periodo nero sia ormai chiuso, ecco. Questo è Alex Del Piero. Rimarrei su questa partita e su Bologna, dove c'è Emilio Buttaro che è allo stadio e cui chiedo subito se ha visto come ha visto la Juventus. Ciao Emilio. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Sì, diciamo che la Juventus ha ottenuto questa terza vittoria in una settimana soffrendo davvero tanto. Poco fa Zaccheroni ha detto che ha affrontato il miglior Bologna della stagione e probabilmente è così. È stata una Juventus cinica che è riuscita a ottenere il gol partita proprio dopo quello sbagliato da Gimenez. Una gara sofferta da parte della Juve, qui intanto sta tenendo banco, Carlo, negli spogliatoi, in sala stampa, l'episodio del presunto tocco di mano di Alex Del Piero in occasione dell'assist che lo stesso capitano bianconero ha fatto a Candreva quando poi c'è stato il gol del 2-1. E volevo segnalare alcune dichiarazioni da parte del capitano del Bologna Moras, il quale ha detto: noi in quel momento ci siamo proprio fermati e il tocco di mano era netto da parte di Del Piero. Boucher, l'autore del gol del Bologna, ha detto: è peccato perdere una partita per un episodio così lampante. Ho visto anche Del Piero girarsi verso Portanova e fare quasi un sorrisino, come quasi per riconoscere questo tocco di mano. Ma chiederei intanto a Nicola Cecere, collega della Gazzetta dello Sport, presente qui a fianco a me, un commento su questo importante successo della Juventus che rilancia i bianconeri prepotentemente in classifica. Adesso sono tornati al quarto posto. Sì, è stata una partita molto equilibrata, il Bologna non merita la sconfitta, il match è ruotato intorno all'episodio del 18° della ripresa, quando il giovane Gimenez ha sbagliato un gol che onestamente era più difficile sbagliare che realizzare, a porta vuota, ha centrato il palo anziché 7,15 metri di porta. E lì dopo 3 minuti il Bologna ha pagato pegno su questa fantastica azione di Del Piero, che poi la televisione ha dimostrato essere assolutamente esente da falli di mano, e quindi Moras dice due bugie: la prima che loro si erano fermati perché i giocatori del Bologna continuano a giocare, e la seconda che il fallo di mano di Del Piero è evidente, perché non c'è fallo di mano ma un controllo con la coscia, con il corpo, in ogni modo non con le mani. E lì, con questo gol in diagonale di Candreva, la Juve si è assicurata la vittoria. Il Bologna non è più stato capace di impensierire seriamente Buffon, però ripeto, sul piano del gioco il Bologna è stato alla pari della Juve, proprio hanno deciso gli episodi. Carlo, non so se hai qualche domanda dallo studio. Volevo che ancora c'è. Guarda, sì. Soltanto una valutazione sulla partita dei due brasiliani della Juventus, Diego e Felipe Melo. Diego mi è piaciuto molto nella prima mezz'ora, è stato assolutamente protagonista, ricordo che ha colpito anche un palo, e Felipe Melo ha fatto una partita di sostanza, quelle che fa lui, infarcita di un paio di alleggerimenti sbagliati, quelli che fa lui. Continua ad avere molte perplessità sul fatto che lui possa reggere quel ruolo lì, cioè davanti alla difesa, è un ruolo troppo delicato, ci vuole gente dai piedi migliori, però ha fatto una partita di sostanza, di sacrificio, alla fine è risultato assai utile ai fini della vittoria. Nicola, posso dirti una cosa? No, stavo ripensando a quanto tu dicevi prima a proposito delle parole di Moras, eccetera eccetera. A me personalmente danno molto più fastidio queste cose di mille battute di Mourinho sulla lunghezza dell'area di rigore della Juventus o su Mazzarri che non ha mai vinto la Coppa di Toscana eccetera. Mi ha molto più fastidio queste cose, a me personalmente. Sì, ma il problema è questo, io faccio il cronista da 35 anni, allora 35 anni fa aveva un senso chiedere ai giocatori com'è andata, cosa è successo, perché tu eri sugli spalti, vedevi l'azione una volta per tre secondi, era giusto ricorrere alla testimonianza dei protagonisti. Adesso che i protagonisti continuano a raccontare le stesse frottole che ci raccontavano i giocatori di 35 anni fa, fa effettivamente molto ridere, fa comicità, perché poi tu sei immediatamente smentito da 12 telecamere, e quindi insomma mi sembra un'ingenuità assolutamente fuori luogo, insomma o uno arriva e dice la verità perché sa quello che dice, o se no o meglio che sta zitto. Poi mettere fuori delle ombre che vengono fugate mezz'ora dopo. Certo, grazie Nicola, grazie Nicola Cecere, grazie Emilio Buttaro da Bologna. No, ma sul serio, insomma, si è scomodata prima, avete sentito anche della sociologia su Mourinho, mi sembra francamente tanto, mi sembra francamente fuori luogo. Ma poi quando, ad esempio, se vogliamo rimanere in tema sociologico, chi ci governa dà vita ad atteggiamenti tribali, a degli insulti che ormai ai quali non facciamo nemmeno più caso, tanto sono tanto frequenti, ma insulti veri. Poi dobbiamo scandalizzarci, fare la sociologia, perché un allenatore dice all'area della Juventus è lunga 25 metri, a Roma chiagne e fotte come dicono a Napoli, oppure Mazzarri non ha vinto la Coppa di Toscana e vuole fare risultato contro di me. Sinceramente non riesco a scandalizzarmi davanti a queste cose. Mi dà molto più fastidio invece, torno a ripetere, quello che dice ci siamo fermati, era fallo di mano, poi fallo di mano non c'è. Quello che dice ma mi hanno il rigore non c'era e mi hanno anche ammonito il portiere che salterà la prossima partita, l'ha detto a dire per quel massimo rispetto, poteva anche buttarlo fuori Muslera, come ho sentito prima Massimo Chiesa era fallo da ultimo uomo e il fallo c'era ed era rigore. Queste cose mi danno più fastidio. Antonio da Roma, buonasera. Io volevo fare un po', mettere l'attenzione sulla capacità che ha avuto Mourinho di farsi voler bene dai suoi tifosi, che non è così semplice, perché Milano è una piazza anche abbastanza difficile per un allenatore. Antonio, lei ha ragione, ma secondo me è semplicissimo. E anzi, sa cosa le dico? Poi mi risponde, sa cosa le dico? Che adesso, se per una bizzarria del fantamercato Mourinho andasse alla Juventus, i tifosi della Juventus che adesso lo detestano, ma come fa parte delle regole del gioco, come è quasi giusto e fisiologico che sia, finirebbero per adorarlo, perché è così. Ieri un ascoltatore chiama e mi dite voi vi bagnate a ogni cosa che dice Mourinho, quando tifoso juventino dichiarato, quando io credo quegli stessi tifosi sarebbero i primi a bagnarsi se Mourinho andasse a fare quello che fa dalla panchina della Juventus. E continua a ritenere che la Juventus sarebbe un gran bisogno. Visto che c'è un ascoltatore che vuole entrare in argomento con eventuale riconferma di Zaccheroni, eccetera, eccetera. Io credo che la Juventus, con tutto rispetto per Zaccheroni, sta facendo, così come prima impressione, uno splendido lavoro alla Juventus. Credo che la Juventus avrebbe bisogno di un allenatore così personaggio, in questo particolare momento storico che sta vivendo, di un allenatore così personaggio, così capace di fare capopopolo anche molto sopra le righe, come spesso capita a Mourinho. Antonio. Di essere istrione e di riunire la gente, di far sentire la gente un qualcosa di appartenenza. Io, da interista, devo essere sincero, avevo un po' lasciato perdere. Non ero più affezionato all'Inter di Mancini, perché io sono un vecchio tifoso del Cino Recoba, che probabilmente per me la fantasia era più importante, c'era qualcosa A me quando è andato via Recoba, per me l'Inter è finita. Sì, beh, insomma, un po' tanto. Qualche giocatore, qualche giocatorino un po' migliore del Ciro c'è stato. Insomma, mi viene in mente Ibrahimovic, tanto per dirne uno. Insomma, io capisco tutto quanto, capisco questa attrazione verso una fantasia un po' fine a se stessa come quella di Recoba. Però insomma, ha fatto bene, diciamo che ha fatto bene a tornare, non so se trascinato da Mourinho o da altri, in orbita Inter. Ci fermiamo per il traffico. Strade in diretta. Traffico intenso sulle autostrade della Liguria, ci sono code a tratti in direzione Genova lungo la 10 dei Fiori tra Borghetto Santo Spirito e Savona e ancora tra Celle Ligure e Arenzano e code a tratti anche sulla 12 tra Rapallo e Genova Nervi, lungo la 7 code per lavori verso Milano tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 5 Torino Courmayeur tra Châtillon e Ivrea in direzione Torino e rallentamenti anche sul raccordo Ivrea Santià verso la 26, traffico intenso verso Torino anche sulla 32. Code sulla 4 Torino-Milano in direzione Milano tra Balocco e Greggio e tra Novara Est e Marcallo Mesero, code a tratti anche sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e Gallarate verso la 8 e sempre per i molti veicoli in circolazione ci sono rallentamenti sulla 22 del Brennero da Trento Centro ad Affi verso Modena, per lavori code di 3 km sulla 15 della Cisa tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma e ci sono code per lavori anche al nord-est lungo la 31 della Val d'Astico tra Vicenza Nord e la 4 e in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Cascina e Ponte d'Ovest verso Firenze. Infine, prime code anche verso la capitale sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova. È tutto per il momento, noi torniamo tra mezz'ora. Tempo di sport. Prima di Giacomo dalla provincia di Modena, ricordo sempre il numero verde 800 24 00 24. Prima di Giacomo però andiamo a Roma da Guglielmo Timpano. Guglielmo Timpano, buonasera. Buonasera Carlo. Ci crede la Roma? Quanto ci crede la Roma? La Roma ci crede tanto, lo dice molto molto poco. Profilo bassissimo per Claudio Ranieri che continua a fare insomma grandi complimenti all'Inter. Oggi in conferenza stampa dopo la partita finita pochi istanti fa, il mister ha detto l'Inter ha dimostrato di essere una grandissima squadra, l'ha detto anche Daniele De Rossi, stessa motivazione perché in 9 contro 11 ha tenuto in scacco la Samp, ha rischiato di vincere. In realtà per quanto possa essere vera questa considerazione, c'erano grandi sorrisi in casa Roma e c'era grande voglia di crederci, tanto che Ranieri si lascia sfuggire una metafora, ha detto siamo in un curvone, come se fosse una gara di cavalli, gli hanno chiesto se trotto o galoppo, ha detto non me ne intendo, siamo in un curvone, a me interessa arrivare primo alla fine e lì su questa battuta ci sta tutto il Ranieri pensiero. Roma un po' stanca oggi però, Guglielmo. Roma un po' sulle gambe, venerdì mattina l'ha sottolineato anche il mister Testaccino, erano ancora ragazzi ad Atene per la trasferta tra l'altro anche sfortunata con il Panathinaikos, è stato un ritorno difficile, una Roma a cui mancava l'asse portante della squadra, la colonna portante della squadra, se si pensa che Giulio Sergio il portiere titolare era out, Mexès difensore centrale titolare della Roma per quanto Burdisso stia giocando benissimo era out anche Pizarro, il miglior giocatore della Roma degli ultimi due mesi, non c'erano Totti e Toni lì davanti, una Roma che ha giocato con Cerci giovanissimo, con Menez giovanissimo, entrambi promossi dall'allenatore, una Roma che ha schierato un 4-4-2 ibrido, perché poi in realtà i colleghi hanno dovuto ricorrere a una vera e propria domanda perché ci avevano giocato sopra un cappuccino, è stato anche un siparietto carino in conferenza stampa per Claudio Ranieri, erano partiti i cappuccini, scommesse su che modulo avesse adottato la Roma. Io personalmente avevo visto un 4-2-3-1 smentito dall'allenatore, ma stiamo parlando di metri di differenza su posizioni che poi fanno di questa di Ranieri una Roma spallettiana ibrida. Sì, ibrida anche perché la Roma in queste partite con Spalletti faceva più fatica. Decisamente sì, assolutamente sì, e questa è la grande differenza. Esatto. Le partite vinte per 1-0 con Spalletti sono state poche, senza nulla togliere a un allenatore che adesso a Roma è stato già dimenticato ma che ha fatto un gran bene. Ma c'è da dire no, che questa Roma di Ranieri è certamente più concreta. Grazie Guglielmo, buon lavoro, alla prossima. A voi. Torno agli ascoltatori con Giacomo, buonasera Giacomo. Buonasera, vi volevo ringraziare per lo spazio che mi state accordando. Volevo chiedere una cosa, dunque, per quanto riguarda il lavoro di Zaccheroni, è meno di un mese che l'allenatore romagnolo è arrivato alla guida della Juve. Io, si sarà capito, sono tifoso di quella squadra. Sì. Le volevo dire, ma in settimana sono apparse notizie su un quotidiano di Torino, Tutto Sport, che Bettega gli avrebbe detto al signor Zaccheroni che per valutare il suo nuovo lavoro a fine anno si potrebbe anche guadagnare la conferma per il prossimo. Sì, ma questo si sapeva già da quando Zaccheroni è stato chiamato, cioè non è che gli hanno detto, è evidente che il suo ruolo è quello di traghettatore, però gli hanno detto vediamo come vai, ma è normale, no? Tanto che mi sembra sia scritto anche sui contratti, quindi. Certo, ma secondo lei non è che i motivi sono questi, che il signor Hiddink si è già casato, mi sembra, come commissario tecnico della Turchia, mentre per Benitez ci sono innumerevoli difficoltà e perché il Real Madrid ci ha fatto un pensierino? Non lo so Giacomo, ma io credo che alla Juventus debbano cominciare a chiedersi le idee, no? Io penso e spero che stiano già lavorando sul futuro con idee, contatti, progetti ben precisi per non ripetere esperienze come quella dell'ultima stagione, insomma, perché è adesso che bisogna cominciare a costruire il futuro. Non si può dire vediamo cosa fa Zaccheroni alla fine, poi ci pensiamo. Il momento di pensarci sia questo. Grazie Giacomo. Dunque, oggi sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando scrive un commento, una domanda: perché non è così che l'Inter voleva avvicinarsi al Chelsea col terzo pareggio consecutivo che offre alla Roma la possibilità, poi concretizzatasi sul campo oggi, di portarsi a meno 5 e al Milan di sognare, e questo rimane al momento un sogno per la cronaca, di sognare un virtuale meno 4. Con la fatica di una partita vissuta a lungo in 9, col nervosismo che logora corpo e mente. Ciao Luigi, buongiorno, grazie. Ciao a tutti. Come arriva l'Inter, dunque, al Chelsea, secondo te? Ma arriva, purtroppo per lei, nel rispetto della sua tradizione, cioè ha questo talento incredibile di complicarsi sempre la vita. Qualche anno fa lo fece Mancini annunciando le sue mezze dimissioni prima della partita più importante della stagione. Io credo che anche questo approccio di Mourinho, che ha esasperato venerdì in conferenza stampa lanciando un nervosismo che poi ieri hanno raccolto in modo, appunto, secondo me incomprensibile i giocatori, guasta proprio questa vigilia, perché hanno speso fatica giocando in 9, perché il nervosismo poi logora mentalmente, e invece dovevano avere la calma che dà la loro classifica, che dà la loro condizione di squadra più forte, e quindi si avvicinano in modo, secondo me, preoccupante. Sì, come sottolineavi, le ultime esperienze, le ultime vittorie in Champions League dimostra come siano squadre che vanno la forza e la tranquillità dei forti, quelle che poi hanno fatto strada fino in fondo. Sì, perché insomma, se ricordiamo Valencia, se ricordiamo Liverpool, Manchester, cioè tutte le uscite della Coppa sono sempre state caratterizzate da parte dell'Inter da questo nervosismo anche ingiustificato, e poi le facce sono sempre quelle stravolte, non so, di Stankovic, come era stravolta ieri, e poi i giocatori anche esperti come Cordoba e Samuel, che dovrebbero invece trasmettere calma, invece hanno fatto il contrario. Ecco, secondo me l'ultimo salto di qualità di questa squadra fortissima che è cresciuta negli ultimi anni era questo, cioè essere conscia della propria forza, e questa consapevolezza ti deve dare anche tranquillità nelle vigilie. Questo salto non si riesce a fare. Sì, però è abbastanza, direi quasi normale che i nervi li abbiano scoperti soprattutto i vecchi, no? Quelli che hanno vissuto gli eurofallimenti dell'Inter delle ultime stagioni, anche perché insomma, io ho l'impressione che Mourinho stia provando a gestire questo gigantesco scimmione che l'Inter si trascina sulla spalla. Sì, però non so se poi è il modo giusto, proprio perché andare a cercare sempre nemici, andare sempre a cercare complotti vuol dire che c'è qualcosa fuori di te che non sai dominare. Io invece credo che il messaggio che deve far arrivare l'Inter, la propria squadra, è il contrario, cioè hai tutto per dominare l'avversario, per dominare la competizione. Io credo che questo Inter ci abbia tutto, solo fino a crearsi dei nemici all'esterno. E io penso che questa entrata anche dura di Moratti per dire state zitti forse abbia capito che la strategia va cambiata, quindi è molto molto importante questo intervento di Moratti, di zittire lo spogliatoio e di zittire anche Mourinho. Anche il pomeriggio di oggi Luigi ci ha riportato a temi di cui francamente faremmo a meno, no? Da temi arbitrali, dai lamenti della Lazio prima sentivo il tuo collega Nicola Cesare che raccontava di questo siparietto di Moras nella sala stampa del Bologna, che diceva: beh, era chiaro il fallo di mano di Del Piero, ci siamo fermati tutti, tanto Del Piero mi ha anche guardato e mi ha sorriso in modo malandrino. Quando poi Del Piero non ha fatto nessun fallo di mano, il Bologna non si è fermato, e niente di tutto questo. In piccoli o grandi episodi torniamo sempre al punto, che è lo stesso. Sì, e purtroppo io credo che proprio, anche se sembrano parole retoriche, le diciamo sempre, però ci vuole un contributo veramente da parte di tutti. Io vedevo adesso appunto qualche intervista, e allora per raccogliere qualcosa di positivo mi è piaciuto l'atteggiamento col di Colomba, che dice vabbè, può avere sbagliato, però abbassiamo i toni, e lo stesso Prandelli, essendo stato derubato e saccheggiato in settimana, ha mantenuto un profilo corretto e bello. Ecco, è questa secondo me la linea d'azione da seguire, una assunzione complessiva di responsabilità, perché sennò veramente si va allo sbando, insomma. Luigi, per chiudere, che Milan ti aspetti questa sera dopo la levata di scudi di magnifica di Leonardo di ieri? Sì, io sono qua a Bari, quindi sono veramente curioso di vedermi la partita stasera. Ecco, un'altra cosa bella è proprio sottolineare, proprio nella stessa città e nello stesso momento, mentre Mourinho andava a cercare dei nemici esterni, le parole invece di Leonardo, che cercavano la serenità contro, tra virgolette, un insospettabile nemico interno che è Berlusconi, che ha minato un po' l'ambiente con queste affermazioni per certi versi anche sconsiderate. Insomma, un Milan che non è stato rinforzato, è stato messo in mano a Leonardo, che ha fatto tantissimo, ce l'ha in corsa con la Champions, può arrivare addirittura secondo, e ora gli si dice anche giochi male, quando lui è costretto come primo cambio ad avere Favalli che ha 38 anni. Ecco, quindi io sono proprio curioso di vedere come, credo magari anche la squadra si compatterà. Bravissimo. Per gratitudine. Bravissimo. Alle parole di Leonardo, e vediamo come va a finire contro un Bari che ha già fatto fuori la Juventus e impegnato l'Inter, quindi sarà una partita che credo bellissima. Grazie Luigi, buon lavoro. Buon lavoro, ciao a tutti. Grazie davvero Luigi Garlando. Adesso ci fermiamo per un'altra breve pausa, subito dopo beh, vorrei qualche altro ascoltatore. 800 24 00 24. Poi andremo a fare un salto in Spagna, poi andremo a fare un salto in Inghilterra, già ve lo dico, per capire come sta vivendo invece questi giorni di vigilia il Chelsea. Poi vi darò qualche aggiornamento sulla finale della Coppa Italia di basket che è appena iniziata. Insomma, tutto questo con noi dopo questa breve pausa. Immaginate di svuotare casa vostra, di liberarvi di mobili, di libri, di elettrodomestici, dei vestiti. Cercate di pensarla senza quadri alle pareti, senza mensole, senza soprammobili. Ecco, questo è quello che sto facendo da qualche tempo. Vendo tutto. Tutti i giorni alle 16 su Radio 24. Vendo tutto. Ehi, ma io ti conosco. Certo, sono uguale a te, quindi anche tu hai 12 canali di cinema. No, ne ho meno, molti meno. Vabbè, almeno hai tanti canali in HD. No, mica tanti. E i mondiali? Non ho neanche quelli. Vabbè, ma allora... Nessuno ti dà di più. Tutto Sky a soli 29,90 euro al mese per 3 mesi. E in più i mondiali FIFA sono inclusi. Chiama 02 70 70. Puoi aderire entro il 28 febbraio 2010. Tutte le info su sky.it. E per calcolare i profitti del nostro investimento, ricorriamo in questo caso al coefficiente CFX. CFX opera da anni sul mercato dei cambi spot con un sistema di trading sicuro e affidabile. CFX, una piattaforma di trading online semplice e leggera. CFX, operazioni 24 ore su 24 con un desk italiano e multilingua e assistenza di veri professionisti. www.cfxfb.com. CFX, il giusto coefficiente per i tuoi investimenti. Chi dice che le tecnologie pensate per il futuro non sono ancora disponibili o costano troppo? Oggi Volkswagen presenta Blue Motion Technologies, un insieme di innovazioni nate per farci risparmiare, ridurre i consumi e limitare le emissioni. In più, con l'iniziativa Blue for You, Volkswagen vi offre oltre 2.000 euro di vantaggi sulla gamma Blue Motion Technologies e finanziamenti a tasso agevolato. Perché l'ambiente è di tutti e anche la tecnologia che lo difende deve essere per tutti. Offerta valida fino al 28 febbraio. Maggiori informazioni su Volkswagen.it. G-Square, soluzioni, servizi e tecnologie ICT. No worries. Realizziamo progetti, software, pacchetti applicativi in ambiente client server e internet. Forniamo servizi professionali sulle più diffuse piattaforme ICT, lasciandovi il piacere di fare i vostri affari senza preoccupazioni. Piccolo o grande che sia la vostra esigenza, don't worry, BC Square. Per informazioni visitate il sito internet www.csquare.eu. Oggi il presidente Mandela assume l'incarico a Pretoria. Candidato a due premi Oscar, Morgan Freeman. Questa nazione ha fame di grandezza. Matt Damon. Questo è il nostro destino! Il nuovo capolavoro di Clint Eastwood, Invictus, al cinema. Tempo di sport. Io volevo con colpevole ritardo leggervi la classifica della Serie A. Ieri prima mi sono interrotto nella lettura, preso dalle voci degli allenatori e dagli eventi di cronaca. Non ho ancora letto la classifica e sono le 18:31. Mi scuso con tutti. Inter 55, Roma 50, Milan 45 e due asterischi accanto, due partite in meno, quella stasera a Bari e quella di mercoledì nel tardo pomeriggio e nel prepartita di Inter Chelsea. Milan che ne ha 45, Juventus 41, Juventus che dunque torna al quarto posto in zona Champions League da sola. E viene da ridere pensando, soltanto un paio di settimane fa tutti gli ascoltatori che intervenivano e dicevano: ma secondo lei, ma la Juventus ce la farà a tornare in zona Champions League, ce la farà a chiudere almeno al quarto posto il campionato? Due vittorie, due partite, due vittorie e la Juventus è quarta da sola. Napoli, Palermo e Sampdoria, terzetto a 40, Cagliari, Genoa 38, Fiorentina 34, e la classifica che è una cera un po' migliore dopo la vittoria di oggi. Ricordo, per la Fiorentina un solo punto nelle ultime 5 partite, prima di quella di oggi con il Livorno. Bari, Chievo 32, Parma 30, ed è la classifica del Parma a questo punto ad essere piuttosto preoccupante, 2 punti in 9 partite per la squadra di Guidolin. Bologna 28, Lazio 25, Udinese Catania 24, con l'Udinese che oggi, lo saprete già, se non lo sapete ve lo dico io, oggi ha richiamato l'allenatore con l'elastico, e cioè Marino, mandando via De Biasi, richiamando dopo 2 mesi esatti, 22 dicembre, 21 febbraio, questo è stato il regno di De Biasi all'Udinese. Bene, Marino con l'elastico attaccato alla vita è stato riportato indietro da patron Pozzo. Quindi Udinese Catania 24, Livorno 23, Atalanta che invece di segnali positivi proprio non ne manda, perché la classica partita da non perdere, quella di oggi in casa con il Chievo, ebbene l'ha persa giocando anche male l'Atalanta di Mutti. Atalanta 21, Siena 17, Cagliari, Fiorentina, Bari e Udinese una partita in meno, Milan due partite in meno, questa è la classifica. Saluto Dario Ricci che mi ha raggiunto per vedere insieme a me la finale della Coppa Italia di basket. Ciao Dario. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Come sta andando? 14-8 per Siena, che sta allungando soprattutto direi come d'abitudine grazie alla difesa, ma intanto è arrivata una bella tripla di Koponen, 14-11. Bologna rimane a contatto, prima Marco Nato ha cominciato a lavorare sporco sotto i tabelloni, ha preso un bello sfondamento, un fallo in attacco di Patricio Prato, e Siena poi reattiva anche a rimbalzo offensivo con Sato che sta finora armando i tiratori senesi. 1:03 del primo quarto, Siena 14, Bologna 11. Speriamo che la partita duri, naturalmente ne parleremo dopo, dalle 20:30 alle 21 torneremo su questa gara e torneremo a parlare di basket. Ezio da Palermo, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, volevo farle qualche domanda in merito al Palermo. Prego. Prima di tutto volevo chiederle se Zamparini venderà Kiar Hernandez, secondo lei ovviamente anche Pastore alla fine del campionato, oppure li terrà per farli crescere. E poi volevo dirle se non fosse meglio comunque attenzionare di più le squadre che sono, per esempio, il Napoli, il Palermo, per far crescere anche il campionato, visto che si concentra sempre l'attenzione sempre sulle stesse squadre, quali Juve, Roma e Inter. Grazie. Sì, a lei. Dunque, si concentra su queste nel momento in cui il Palermo e il Napoli entreranno effettivamente in corsa dello scudetto, nel momento in cui il campionato italiano sarà un po' più di livello, non mancheremo di occuparci in maniera più profonda di queste squadre. Palermo in particolare ha fatto un grandissimo acquisto. Io non so di Chiar, di Pastore, di Hernandez. A occhio e croce Chiar è maturo per la vendita, gli altri due meno, perché stanno cominciando a crescere nel Palermo. Non so se andranno via. Il Palermo ha fatto un grandissimo acquisto, che siede in panchina, degli Orossi, che è secondo me uno dei davvero dei migliori allenatori italiani. Basta guardare i risultati, basta guardare la logica che ha dato a questa squadra, che di talento ne ha tanto, e dunque il grande acquisto di Zamparini è stato quello. Poi quanto agli altri non so che fine faranno. Salvatore, Bologna, buonasera. Sì, buonasera. Mi spenga la radio per favore, sì. Se no sento il ritorno, grazie. Sì, l'ho fatto. Grazie, l'ho fatto. Grazie. Poi la riaccenda. No, volevo avere una sua opinione sulla situazione della Juventus, no? Perché questo cambio di allenatore da Ferrara a Zaccheroni, insomma, lo capiamo, cioè, parlandone fra tutti i tifosi juventini, cioè, tutti capivamo che era indispensabile sostituire questo allenatore, ma perché aveva preso, insomma, degli schiaffoni da tutti, da Zenga, da Mazzarri, cioè, era stato, diciamo, surclassato a livello tattico, anche nella gestione dei campi. Poi si prende uno Zaccheroni che non allenava da 3 anni, fa una cosa intelligente, cioè passa alla difesa a 3 con 2 ali che praticamente sono 2 terzini aggiunti, no? Per dare un po' più di copertura, un po' più di sostanza, difendere questo Diego che non si riesce a inserire. Sì. Miracolosamente la Juve comincia a vincere ad Amsterdam, sì. Vince a Bologna, però Salvatore, dopo che è stata in attaccio, però quella difesa 3 mi sembra che ancora un po' balli, anche oggi a Bologna nel secondo tempo ha ballato parecchio, non ha dato grandi segnali di solidità. Però torno a ripetere quello che ho detto nelle scorse settimane. Prima parlavo di Gorilla che abita sulla spalla dell'Inter quando mette la maglietta per giocare in Champions League. Uno scimmione gigantesco sulla spalla lo aveva anche la Juventus. Zaccheroni o non Zaccheroni, modula 3, modula 4, modula 5. Queste sono tutte cose che valuteremo dopo. Per la Juventus era importante. È chiaro che la Juventus non era quella che ha perso 1000 partite consecutive con Ferrara. Era precipitato in un pozzo. Da quel pozzo poteva uscire solo in un modo, non con il gioco, non con la difesa 3 a 4, con un modulo, con un giocatore piuttosto che l'altro. Poteva uscire da quel pozzo soltanto vincendo una partita. In modo rocambolesco, ripeto, non col gioco perché non era in grado, in modo rocambolesco, con un rigore che è quello che ricordiamo. Insomma, la partita che ha svoltato la stagione della Juventus è chiaramente stata quella di domenica scorsa con il Genoa, non a caso poi è venuta la vittoria di Amsterdam, quella di oggi con il Bologna. È una Juventus in crescita, è una Juventus che ha cacciato via la scimmia e adesso, insomma, io credo potremo valutare i progressi anche tattici che fa. Fino a questo momento era impossibile, non credo sia una questione di tattico o di modulo, insomma credo sia esclusivamente una questione, come peraltro ha sempre detto benissimo Zaccheroni, di autostima, perché era una squadra che aveva una dannata paura di perdere, aveva una dannata paura in ogni fase del gioco. Non è una questione di modulo, ma di paura nel compiere qualunque gesto, dal più semplice passaggio al tiro in porta. Adesso questa paura lentamente sta andando via. 800 24 0024, vi ricordo il numero verde. Intanto saluto dalla Spagna Filippo Maria Ricci, per noi e per la Gazzetta. Ciao Filippo. Buon pomeriggio a te. Dunque, aspetti l'arrivo di Mourinho? No, ancora prematuro, dai. Insomma, dipende da tantissime cose. Qua gli fa piacere. C'è un giornale che marca che controlla l'allenatore, quindi gli piacerebbe cambiarlo, e i nomi disponibili sono pochi, e quindi se uno vuol cominciare a fare un po' di rumore, insomma, o c'è Benitez o c'è Mourinho, e così, insomma, però io sono d'accordo con quanto detto da Mourinho, insomma, dice, no, lui non entra in questi giochi, se qualcuno vuol dire quello, insomma, vuole inventarsi delle cose, lo può fare, insomma, ancora prematuro. È chiaro che se Real Madrid dovesse uscire dalla Champions League, Pellegrini, diciamo, terminerebbe il proprio, no? Sì. Il proprio lavoro qui rapidamente. Ah, sicuro. Però bisogna anche vedere cosa farà l'Inter col Chelsea, perché quella è un'altra, no, grande incognita. Sono due squadre ferite in Champions, l'Inter che non vince da tantissimi anni, il Real Madrid che è uscita agli ottavi negli ultimi 5. Allora sai, c'è molta tensione, molta preoccupazione. Certo è che io dico una cosa, ieri sera mi sono visto la partita dell'Inter qua in televisione, qua in, sì, Spagna, E lui Mourinho è stato esaltato, non certo per il gesto delle manette, della X. Delle manette, delle manette sulla prima pagina di tutti i giornali. Quello non è stato esaltato per quello, ma è stato esaltato per la gestione della partita e per i cambi che ha fatto. Perché ovviamente qui pensano sempre che noi in Italia no, siamo molto difensivisti, tutto insomma, la solita trafila, e vedere lui che non cambia, non toglie le punte, no, mette Pandev, ieri veramente parole di grandissimo elogio per questo Mourinho, che di solito viene attaccato per essere un difensivista, ieri ha giocato, se l'è giocata fino alla fine e poi quasi non riesce a vincere. Tu l'hai seguito Filippo, tu l'hai seguito in Inghilterra, insomma lo conosci bene, come lo valuti come personaggio? Ti piace o non ti piace? No, io sono tutta la vita con lui, perché comunque al di là poi delle esagerazioni che ci sono, bravo, però almeno ogni volta che lui parla c'è qualcosa, se uno va, io purtroppo di mestiere devo... Ma non solo per comodità nostra, No, a me nello sport i personaggi che riescono a uscire un po' dalla riga, che danno fastidio ai più, soprattutto ai tifosi, magari ai colleghi, certe volte sono addirittura volgari e offensivi, per esempio quelle offese gratuite nei confronti proprio di Zaccheroni, quando Zaccheroni era in veste di telecronista, ve ricorderete bene, inutile che ci torniamo sopra, quelle furono estremamente ineleganti, però uno che dice qualcosa, santi Dio, in un ambiente depresso come lo sport di oggi, ma ben venga. Ma sì, insomma è chiaro, episodi negativi ne possiamo citare tanti, no? Diciamo, gli insulti a Ramazzotti, no? del Corriere dello Sport, tantissimi, certo. Anche con Ranieri, però è vero che almeno lui ha un'idea, ha un piano, dice qualcosa, non si trincera dietro il solito, insomma sì, l'avversario è molto forte, speriamo di farti giocare bene e via dicendo, insomma. Quindi questo io lo... ed è per quello che poi dopo per esempio lo vorrebbero qua, perché ecco, Pellegrini, persona intelligente, però fa un po' fatica. Adesso finalmente, adesso perché lo stanno attaccando e lo attaccano da dentro un po' anche la società, finalmente ha tirato ieri. A me è piaciuta l'ultima conferenza stampa, grandissimo, lui ha detto, dice intanto qui mi sembra che negli ultimi 4 anni siano stati cambiati 8 allenatori, dice, e non è che sono arrivati di 15 titoli e hanno solo 22 campionati, insomma non è che dice proprio, no? Certo. E poi si è difeso in maniera molto molto coraggiosa e anche brillante, però l'ha fatto quando proprio veramente insomma non ne può più, praticamente, come anche l'ultimo Schuster era così, però per i primi 6 mesi non veniva fuori niente, perché poi a me viene in mente Guardiola è un altro che dice sempre qualcosa, è meno polemico di Mourinho, però se si deve tirare fuori il suo sassolino lo fa sempre e comunque ti lascia sempre con qualcosa che non è, appunto, non è solo per noi, ma visto che poi noi comunichiamo alla gente è un po' per tutti, insomma, ecco. Quindi benvengano insomma questi personaggi. Per chiudere, Barcellona mi sembra che stia scaldando i motori, a giudicare dagli exit poll del campionato, che si stia scaldando i motori per la Champions League. Ieri una partita orrenda, questi del Racing, veramente un comportamento pessimo. Prima, io l'ho scritto oggi, qua non hanno fatto tanto casino, ma se fossimo stati in Inghilterra avrebbero squalificati. 3 giocatori che erano diffidati si sono fatti ammonire per non giocare contro il Barcellona e giocare contro l'Almeria. Questo mi sembra un segno tremendo. E ieri sono scesi in campo assolutamente senza giocare, li hanno spazzati via, anche il Barcellona non ha fatto niente, Messi quasi non ha toccato palla, sì, un assist alla fine, però sì, adesso la loro partita si gioca diciamo in Champions, hanno un turno teoricamente facile con lo Stoccarda, però hanno diversi assenti e sì, ovviamente per loro venire a giocare la finale qua al Bernabeu penso che non ci siano molte cose che valgono di più nella vita, insomma, a livello calcistico, e quindi sì, stanno scaldando i motori, sono fortunati perché con gli infortuni hanno un turno abbordabile, poi si vedrà, dipenderà dopo chi passa, che cosa ci sarà, insomma, che incroci e via dicendo. Certo. Però non è un Barcellona, ovviamente non è brillante come l'anno scorso. Grazie Filippo. Grazie a voi, un abbraccio. Alla prossima, grazie a Filippo Maria Ricci. Dario Ricci invece ci dice come sta andando la finale di Coppa Italia di basket. 7-22 all'intervallo lungo, 22-16 per Siena, che ha allungato in questo istante un parziale di 5-0 che ora Sato prova a portare a 7-0, ma l'errore del giocatore senese, il 5-0 siglato da una tripla di Domerkand e poi dai 2 punti di Marconato. Da segnalare il terzo fallo a inizio del secondo periodo di Patrizio Prato per quanto riguarda Bologna, e poi una Siena che non sta capitalizzando il grande lavoro che sta facendo dalla lunetta, 7 su 12 appena per i toscani. Traffico, poi torniamo. Il piacere di guidare un'auto innovativa, viaggiare creando energia, controllare il vento e vedere il futuro prima degli altri. Il piacere è sapere che tutto questo è in ogni singola auto che abbiamo costruito. Ognuna realizzata con BMW Efficient Dynamics, il nostro modo di fare di più consumando meno, come la nuova BMW Serie 5 Gran Turismo. Venite a provarla in tutte le concessionarie. Il piacere è a prova di futuro. Strade in diretta. Traffico molto intenso sulle autostrade della Liguria, lunghe code sulla 10 dei Fiori tra Pietra Ligure e Savona e ancora tra Celle Ligure e Arenzano verso Genova e sulla 12 tra Rapallo e Genova Nervi. Lungo la 7 code per lavori verso Milano tra Isola del Cantone, Vignole e Borbera. Code a tratti per il traffico intenso anche sulla 5 Torino-Courmayeur tra Châtillon e Ivrea in direzione Torino. Rallentamenti anche sul raccordo Ivrea-Santhià verso la 26 a partire da Albiano. Code sulla 4 Torino-Milano in direzione Milano tra Balocco e Greggio e tra Novara Est e Marcallo Mesero, code a tratti anche sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e Gallarate verso la 8. Sempre per i molti veicoli in circolazione ci sono rallentamenti lungo la 22 del Brennero da Trento Centro ad Affi verso Modena per lavori, code di 3 km sulla 15 della Cisa tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma e code per lavori anche sulla 31 della Valdastico tra Vicenza Nord e la 4 e in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Cascina e Ponte d'Era Ovest verso Firenze e da Lavoria per chi proviene da Livorno. Code anche verso la capitale sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova e rallentamenti sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo da Vicovaro, Mandela. È tutto per il momento, il traffico torna tra mezz'ora. A tempo di sport. Grande richiesta degli ascoltatori che comunque possono intervenire ancora anche al telefono 800 24 00 24 è il numero verde. A grande richiesta via SMS vi faccio riascoltare, anche perché insomma è questione di cronaca visto che tra un po' il Milan gioca, e io credo che queste parole avranno, come si diceva prima con Luigi Garlando, un peso sulla partita di oggi e soprattutto sull'atteggiamento dei giocatori del Milan. Beh, vi faccio sentire cosa ha detto Leonardo, risentire cosa ha detto Leonardo ieri. Se il presidente oggi ritiene che mi devo mettere da parte, basta una parola. La società non sarà mai lesata con questo. Non avrà neanche un costo aggiuntivo. Perché il giorno che si decide questo, il giorno dopo, io non ho problemi di contratto, di pagarmi contratto. La società non pagherà mai due allenatori. Questa cosa è chiara dall'inizio. Io non ho nessun problema. La squadra, secondo me, ha prodotto un gioco in un certo periodo straordinario. E questo va difeso. La squadra contro il Manchester ha giocato meglio del Manchester e questo va difeso. Dopo, quello che vogliamo tutti è vincere, ci mancherebbe altro, voglio anch'io, credo che voglia il presidente, vogliono tutti. Però le cose vanno anche analizzate con una logica. Io oggi ho un ruolo e lavoro dentro il mio ruolo, con la mia autonomia, con la mia testa e con la mia libertà, che questa non la perderò mai, mai. Possono dire quello che vogliono e chi vorrà dire può dire. Però la mia libertà è molto chiara, lo sappiamo tutti. Patti chiari. Patti chiari, amicizia lunga, oppure no? Questo lo scopriremo. Fantastico quell'esata, la società non sarà mai lesata, lesa naturalmente dall'eventuale allontanamento di Leonardo, che dice io non voglio una lira, se mi vogliono sono qui, se non mi vogliono più vado via, basta che non mi rompano le scatole perché non è il caso, e non è il caso sul serio, non è il caso sul serio, al di là del fatto che di straordinario io quest'anno non ho visto moltissimo nel Milan, se non alcuni brani di partita. Sono invece assolutamente convinto del fatto che Leonardo stia facendo, ripeto, non bene, ma strabene, non bene, ma benissimo alla guida di un gruppo che da cui è riuscito a spremere le ultime pochissime energie che restavano e che restano nel serbatoio di questa squadra, chiaramente al capolinea, chiaramente logora, chiaramente non competitiva, che ne dica il presidente, non competitiva a livello europeo e nemmeno al massimo livello italiano. Mimmo da Varese, buonasera. Buonasera signor Genta, volevo parlare dell'Inter di Champions. Sì. Praticamente io vedo che molti stanno enfatizzando l'Inter, una squadra che potrebbe vincere la Champions, io da interista diciamo, però vedendo che i migliori 12-13 giocatori al mondo sono in Spagna o in Inghilterra. La vedo un po' dura, i vari Cristiano Ronaldo, Messi, Kakà, Gerrard, Rooney, Lampard, più chi ne ha più che ne metta. Sì. Mi dà l'impressione che tutti, poi vedendo anche i risultati delle italiane pure in Coppa UEFA, la Roma fa fatica col Panathinaikos, la Juve, sì, col no, ma non c'è Ajax. Dubbio, non c'è dubbio che il calcio vedo, italiano sia in ribasso. Vedo un gap abbastanza, invece tutti parlano, no, io, stanno aspetti, mettendo no, io tra all'Inter. Beh, ma mi sembra che sia un po' di confusione tra il calcio italiano e il calcio spagnolo, tra le grandi d'Italia e le grandi di Spagna, le grandi d'Italia e le grandi d'Inghilterra, questo gap esiste. Io credo che l'unica squadra competitiva sul serio a livello europeo possa essere l'Inter. Credo altresì che questa sia la miglior Inter costruita da Massimo Moratti nel corso della sua presidenza. Credo che insomma lei parla di Rune, Cristiano Ronaldo eccetera eccetera, le dico Julio César, le dico Maicon, Eto'o, Milito, mi sembrano grandi giocatori, mi sembra che l'Inter sia attrezzata via per vincere la Champions League. Da lì a dire che ce la farà non lo so, sono molto curioso di vedere come riuscirà ad approcciare le due partite della vita che attualmente sono quelle con il Chelsea. Se dovesse passare questo turno, allora poi magari torniamo a fare due conti. L'Inter è attrezzata, l'Inter gioca, però a differenza di tutte le altre grandi d'Europa con una mostruosa pressione addosso, e torniamo allo scimmione di qui sopra, perché questa ricerca spasmodica della vittoria europea è diventata di un peso quasi insostenibile, come dimostrano anche, come dimostra la partita di ieri sera, come dimostra l'atteggiamento degli uomini chiave, che non a caso sono quelli che hanno vissuto le delusioni delle ultime stagioni. Mentre i vergini, da questo punto di vista, cioè i vari Milito, i vari Eto'o, eccetera, hanno, glielo si vede in faccia, anche un atteggiamento, un approccio diverso a questa vigilia. A proposito di vigilia, voglio capire com'è quella del Chelsea. Lorenzo Amuso da Londra, buonasera. Buonasera. Com'è la vigilia del Chelsea? Il Chelsea sta abbastanza bene, non benissimo, ieri ha vinto e ha allungato in classifica il vantaggio sul Manchester United, che contemporaneamente ha perso a Goodison Park contro l'Everton. Il Chelsea ha vinto 2-0, anche se non è stata una grandissima prestazione quella degli uomini di Ancelotti. Ancora segno Drogba con due reti, ha portato il suo totale stagionale a 25 gol. La settimana scorsa si era celebrato Rooney, ma insomma il pericolo numero uno per l'Inter credo che sia Drogba, che appunto ha 19 gol in campionato e soprattutto uno stato di forma impressionante da quando è tornato dalla Coppa d'Africa. 6 partite, 6 gol e insomma sta risolvendo non pochi problemi a questo Chelsea, che a parziale giustificazione conta gli infortunati. Insomma, ieri erano fuori parecchi giocatori: Deco, Alex, Joe Cole, ovviamente Ashley Cole tutta la stagione. Era assente anche Lampard per un'influenza, però Lampard dovrebbe esserci mercoledì a San Siro. Potrebbe esserci un problema sulla sinistra, perché appunto Ashley Cole resterà fuori tutta la stagione. Virchow ieri si è infortunato, se non recupera a quel punto, essendo indisponibile anche Belletti, Ancelotti potrebbe essere costretto a giocare uno tra Paolo Ferreira o Bruma, un olandese di 19 anni, insomma. Qualche problema c'è per quanto riguarda appunto gli indisponibili, e la squadra non è che stia giocando un calcio spettacolare. Certo è che finora almeno tutte le partite importanti della stagione non le ha mai sbagliate. No, anche se in Champions League, in trasferta soprattutto, non è mai stato brillantissimo il Chelsea quest'anno ad onor del vero, e fin qui per quanto riguarda naturalmente la prima fase. Lorenzo, un'altra cosa, arrivano dall'Inghilterra voci di un ammutinamento del Manchester City nei confronti di Mancini, giocatori che non gradiscono le metodologie di Roberto Mancini, e c'è parecchio fermento in quello spogliatoio, ti risulta? Una settimana di polemiche a Manchester, credo che dipenda anche dal fatto che le ultime uscite del City non siano state così esaltanti. È stato costretto al replay in Coppa d'Inghilterra, viene da 3 pareggi consecutivi, anche se resta al quarto posto. C'è stata, prima sono uscita questa storia del suo litigio con Bellamy, al quale avrebbe intimato di non farsi più vedere per i prossimi 3 mesi. In realtà Bellamy con Bellamy c'è stato un confronto, come accade spesso con i giocatori, e oggi tra l'altro ha pure giocato Bellamy gli ultimi 25 minuti della partita con il Liverpool, che è terminata in parità. E poi appunto c'è stata questa notizia, questa voce di corridoio secondo il quale appunto i giocatori sarebbero scontenti della metodologia degli allenamenti, del fatto che gli allenamenti, le sessioni vengono gli orari degli allenamenti vengono cambiati ogni settimana, che l'intensità del lavoro fisico durante le sessioni di allenamento è molto più alta rispetto a quanto i giocatori erano abituati con Mark Hughes. Io credo che in realtà il problema sia stato enfatizzato così perché Mancini è vittima sia dello scetticismo con il quale i tecnici stranieri vengono accolti in Gran Bretagna, sia del fatto ancora che ha preso il posto di Mark Hughes, un allenatore che qui era molto amato, e ricordiamo tutti che appunto è stato liquidato senza troppi complimenti ormai 9 settimane fa dalla proprietà del City. E niente, Mancini è subentrato e adesso la stampa gli sta facendo pagare un po' tutto questo, nel senso che, certo, ripeto, qualche problema è normale, credo che i giocatori, sì, è fisiologico che ci sia, poi escono e vengono un po' enfatizzati, per quello che dici tu, per questo atteggiamento. Grazie a Lorenzo Amuso. Io ho ancora da darmi un aggiornamento con Dario Ricci, poi ho Paolo da Terni. Dario, finale di Coppa Italia, siamo quasi 40 secondi all'intervallo, 38-30 per Siena, che trascinata in questi istanti da Hawkins, 3 su 4 da 3, la tripla di Zizis, ma a gioco fermo. Per quanto riguarda la Virtus, da segnalare gli 8 punti con 4 su 4 da 2 di David Moss. Avremo una partita da raccontare dalle 8:30 alle 9 su questa sul basket, appunto. Paolo da Terni, buonasera. Buonasera, gente. Dica. Senta, a proposito del collegamento che c'è avuto con il suo collega di Madrid. Sì. Ma tutte cose giuste. Però secondo me il problema è un altro, nel senso che sì, sicuramente questo signore che è allenatore dell'Inter farà parlare, ma un allenatore dovrebbe essere ricordato per far parlare, per esempio, per il gioco che fa la squadra. Perché noi adesso, se ci mettiamo a parlare di allenatori seri, quello del Barcellona, una persona che non sta mai sopra le righe, ma l'anno scorso ci ha fatto vedere anche a noi italiani belle partite. Invece a me sembra che questo incensare questo, perché dice anche una serie di stupidaggini, una squadra fatta tutta da mediani con qualche ottimo giocatore, però insomma una bella partita non si vede. Ma è d'accordo oppure no? Mi sembra abbastanza un luogo comune, mi sembra abbastanza un luogo comune, perché mi sembra che invece l'Inter stia cominciando anche a giocare a pallone in modo serio, in modo bello, anche in modo apprezzabile esteticamente, quindi mi sembra sia un po' luogo comune quanto lei dice. Questa è la mia impressione. Adesso ci fermiamo, torniamo dalle 8:30 alle 9 con il basket. Grazie a tutti.